Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. A ormai una settimana di distanza dallo scoppio dello scandalo Mose, ci torniamo sopra. È uno scandalo, un'inchiesta che ci terrà compagnia purtroppo, o per fortuna se volete, per molti anni, perché le cose da scoprire saranno ancora molte. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, tutti quanti mercoledì scorso ci siamo svegli, eravamo già svegli, ma insomma abbiamo strabuzzato gli occhi al mattino quando abbiamo letto quelle prime notizie. Le reazioni a caldo sono state molte, ormai un po' di giorni sono passati. Che cosa si può dire su questo scandalo, che è complessivo perché riguarda le persone disoneste chiaramente, ma di riflesso anche quelle oneste che pagano le tasse e indirettamente hanno pagato anche queste tangenti? Beh, innanzitutto Mirko, devo confessarti che quando hanno cominciato a arrivarmi i primi messaggi sul cellulare ero convinto fosse uno scherzo, poi con il passare dei minuti e i messaggi che continuavano a susseguirsi, veramente sono passato anch'io dall'incredulo a quello che purtroppo, come molti altri, prendere atto di una vicenda giudiziaria che, come hai detto anche te, si porterà per molti anni, ma che credo abbia lasciato tutti senza fiato, perché addirittura c'è chi l'ha definita un po' la madre delle tangenti. Ormai si è perso il conto anche dei milioni di euro di cui queste persone hanno ricevuto, non dico ancora un capo di imputazione, ma sono comunque indagate. Ma la cosa peggiore, che su quelle che sono un po' le notizie di questi giorni, mi rendo conto che quando si tratta di tangenti non esiste colore politico. Abbiamo scoperto anche in questa vicenda come addirittura si parte dalla sinistra alla destra, e che sinceramente ha coinvolto tutti, da ex generali della finanza addirittura anche a dirigenti, anche persone che comunque chiunque di noi ha detto: ma che bisogno avevano, visto anche un po' il lavoro che facevano? Pensiamo all'ex governatore senatore Galan, un assessore, insomma era da 20 anni che faceva l'assessore, un assessore regionale si porta a casa oltre 10.000 euro netti al mese, quindi voglio dire, a un sindaco come Venezia, che era soprannominato anche l'uomo dai 100 incarichi, di cui certamente non è una persona che faticava a arrivare a fine mese. Diciamo che alla fine chi ci ha rimesso siamo sempre noi soliti poveri miserabili che fatichiamo a arrivare a fine mese, che dobbiamo pagarci le visite mediche, che dobbiamo sottostare alle code che gli ospedali ci obbligano e ci costringono quando dobbiamo fare le visite, e sicuramente a subire ogni giorno quelli che sono un po' i famosi, ormai detti da parte di tutti, non ci sono soldi, non ci sono soldi, quando in realtà poi assistiamo a delle opere che dovevano costare poco più di 2 miliardi di euro, e scopriamo in questa vicenda che già il conto è debitato oltre 5 miliardi di euro. Eh sì, e sono tutti soldi pubblici, quindi soldi delle nostre tasse. In questi giorni, sentendo anche altri esponenti politici locali, parlamentari, giustamente loro dicono ora si va ancora una volta contro la classe politica. Dobbiamo anche distinguere però le persone oneste che ci sono anche in politica e che si impegnano davvero molto per il bene comune. Purtroppo però quelli che fanno i danni e si fanno sostanzialmente gli affari fra di loro, mescolando appunto anche il mondo dell'impresa e anche la Guardia di Finanza che hai citato, purtroppo con queste mele marce ne risente tutto il sistema. Però il cittadino comune, e voi ne incontrate tanti allo sportello dell'Adico, il cittadino comune è davvero esasperato, e proprio in Veneto, che insomma si fregiava di essere una regione al di fuori del sistema corruttivo. Ma se cominciamo a fare il ragionamento sui grandi sistemi, dove si cominciava a parlare del Veneto indipendente, Roma ladrona, le famose dichiarazioni, insomma i soldi si fermano a Roma, il Sud, eccetera, scopriamo che è di pochi mesi fa lo scandalo delle tangenti dell'Expo di Milano, è di oggi, di queste ore, lo scandalo del Mose. Oggi credo che la sfiducia e il disgusto che le persone hanno nei confronti della politica è tutta meritata. La politica in questo momento potrebbe solo stare zitta, e mi dispiace solo che alla vigilia dei mondiali di calcio questa cosa ho paura che ce la dimenticheremo presto, anche se l'augurio non sarà certamente questo, ma quello che poi mi fa rabbia è che se da un lato il danno economico che subiscono i contribuenti ormai è diventato ingentissimo, perché parliamo di un'opera comunque di oltre 5 miliardi di euro, che sono 10 mila miliardi di vecchie lire, un'opera che comunque non si capisce ancora fino a che punto è utile, fino a che punto sarà efficace, quanti costi di manutenzione avrà quando andrà a regime, un'opera che comunque è da quasi 20 anni che se ne sente parlare e non si capisce neanche più a sto punto quando finiranno anche... Vabbè, se è stato di avanzamento lavori dicono che è buono, però fondamentalmente il disgusto e l'amaro che resta in bocca da una parte per lo scandalo certamente non è determinato solo da queste cifre, da questa vicenda, ma anche da quello che è stato lo scempio che queste persone hanno fatto anche nel territorio, perché non parliamo anche di grandi opere, parliamo di ospedale L'Angelo, parliamo di del passante, parliamo di un'inchiesta, quella della Mantovani, che era cominciata insomma da quelli che sono state delle certe infrastrutture realizzate negli ultimi anni, che poi è culminato in quella che è la vicenda del MOSE. Quindi non, alla fine chi ci rimette sì sono i contribuenti, ma non dimentichiamo anche l'ambiente, che ha pagato e paga un duro conto quando il Veneto, come la Lombardia e Piemonte, sappiamo che sono le maggiori regioni in cui in Italia è stato cementificato e non so neanche per quanti metri cubi di tonnellate di materiale è stato colato negli ultimi anni, l'equivalente non so neanche più di quante regioni in Italia. E senza contare poi le opere che ancora sono in costruzione o appena iniziate o addirittura in fase di progettazione. Cito la superstrada Pedemontana Veneta, che si è iniziata, e l'ospedale di Padova, di cui ci sono ancora solo i progetti. È comunque una pagina davvero amara su cui non saremmo voluti arrivare, ma tra un paio di giorni alleggeriamo un po' il tema. Sarà un argomento estivo, parleremo di zanzare, ahimè, ma almeno sarà un po' più leggero come argomento. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.